Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi una puntata che vi consigliamo di non perdere assolutamente. Vi riportiamo in Australia, non per raccontarvi solamente e come ogni settimana un'altra storia di fuga da un paese statico e vecchio qual è l'Italia. Vi forniremo anche consigli su come emigrare nella terra dei canguri. La protagonista di oggi infatti aiuta per mestiere i nostri giovani talenti a lasciare lo stivale, dal quale anche lei è scappata, ormai già per ben due volte. Ricevo quotidianamente decine e decine di CV di giovani che sono stanchi del nostro sistema, sono stanchi della nostra classe dirigente e di trovarsi tutte le porte chiuse in faccia e vogliono provare a sfondare in un paese ritenuto più meritocratico. Laura Meda, 31 anni, è la rappresentante italiana di Active Migration Group, società australiana che si occupa di visti per l'immigrazione. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Giornata di mobilitazione oggi per i giovani precari, con lo slogan "Il nostro tempo è adesso", scendono in piazza in centinaia di città d'Italia e pure all'estero. La mobilitazione vuole rivendicare diritti, raccontare una generazione, esigere un paese che investa sulla ricerca e le nuove generazioni, invece che relegarle ai margini del sistema produttivo. Gli organizzatori denunciano numeri preoccupanti, 45.000 laureati lasciano ogni anno l'Italia con un costo pari a 6 milioni di dollari. A Roma appuntamento in Piazza della Repubblica, all'estero manifestazione a Bruxelles. A dare ragione ai promotori della manifestazione ci sono i dati sulla disoccupazione giovanile che a fine 2010 ha toccato un nuovo record sfiorando quota 30%. Lo afferma l'Istat, che non aveva mai registrato un dato così alto dal 2004. Timidi segnali di miglioramento nel 2011. A febbraio il tasso dei disoccupati under 25 è sceso a quota 28,1%. In Europa solo Spagna e Slovacchia fanno peggio di noi. Sempre nel vecchio continente sono oltre 5 milioni i giovani disoccupati. L'economia dei paesi G7 in recupero, ma resta il problema lavoro anche in Italia, avverte l'OCSE il capo economista Piercarlo Padoan. C'è un problema di disoccupazione di lungo periodo in Italia come altri paesi dell'area euro che deve essere affrontata non solo con più crescita ma soprattutto con misure più efficaci sul mercato del lavoro indirizzate al sostegno delle fasce più deboli, i giovani, le donne. Senza finanziamenti la ricerca italiana non avrà futuro, così il premio Nobel Carlo Rubbia, secondo cui finanziamenti per la ricerca come i nostri, inferiori all'1% del PIL, non potranno garantire un cambiamento né un futuro. Basta osservare il grande numero di giovani scienziati che devono andare all'estero. Se questa non si chiama fuga dei cervelli, non so davvero cosa sia, ha affermato Rubbia. Bisogna valorizzare i giovani ad elevata formazione presenti nel mezzogiorno, evitando la fuga di talenti che sta indebolendo le potenzialità di crescita, così la Fondazione Valenzi. Essere giovane e avere un'idea imprenditoriale innovativa con elevate possibilità di tradursi in azienda sono i requisiti per partecipare all'iniziativa Dall'idea all'impresa, promossa da 5 enti pubblici milanesi, i quali sosterranno per un anno i progetti selezionati. Info a ideaimpresa@solombarda.it. Nasce il portale cervellifuori.it, un blog multiautore che raccoglie i diari quotidiani di 5-25enni neolaureati italiani espatriati. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista alla Bank for International Settlements di Basilea, Svizzera, scadenza per i CV 17 aprile, info su bis.org. Uno specialista delle infrastrutture ICT alla sede di Europol all'AIA, scadenza per i CV 10 maggio, info su europol.europa.eu. E infine un ricercatore specializzato in veterinaria per la Agriculture and Food Development Authority di Cork in Irlanda, scadenza per i CV 15 aprile, info su tgask.ie. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Australia. Nel mondo Down Under sono davvero tanti i nostri professionisti fuggiti agli antipodi per cogliere occasioni professionali inimmaginabili in Italia. Nome: Laura. Cognome: Meda. Età: 31. Città di origine: Casale Monferrato. Studi: laurea in giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Australia. Perché? Per un'offerta di lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Responsabile comunicazioni e migration consultant per il mercato italiano. Dove? Sydney, Australia. Tornerai? Forse, però è difficile. Il gruppo australiano dei Temper Trap Sweet Disposition per introdurre la storia di Laura Meda. Laura, oggi con te ospitiamo la prima giovane professionista espatriata il cui lavoro sembra letteralmente uscito dalle frequenze di questa trasmissione. Ed è anche per questo che mi ha colpito molto quando ci hai contattato la prima volta per email. Cosa faccio in pratica? Hai scritto: aiuto la fuga dei cervelli dall'Italia. Così hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Cos'è questa? Un'autodenuncia, Laura? In effetti sì, purtroppo, perché il mio lavoro consiste nell'assistere coloro che si vogliono trasferire qui in Australia e aiutarli nella ricerca del visto più adatto, nel modo per ottenere la residenza e costruire qui la propria vita futura. Infatti ricevo quotidianamente decine e decine di CV di giovani e anche di meno giovani che sono stanchi del nostro sistema, sono stanchi della nostra classe dirigente, della nostra classe politiche e di trovarsi tutte le porte chiuse in faccia e vogliono provare a sfondare in un paese ritenuto più meritocratico e meno chiuso del nostro, come appunto è l'Australia. Decine e decine di CV, attenzione, sono tanti. Premettiamo subito, Laura, che tu nasci quasi su un aereo, divisa tra mondi e città diverse. È stato tuo padre, per motivi di lavoro, a portarti su e giù per l'Italia, vero? Vero, grazie a mio papà ho avuto la fortuna di cambiare sempre città. Fu un'opportunità che mi ha insegnato fin da piccola a essere flessibile. A livello di studi, invece, scegli Milano, Università Cattolica, facoltà di giurisprudenza. Perché questa scelta così rigorosa a fronte di una personalità tanto estroversa? Sapevo che volevo frequentare una facoltà umanistica, dato l'interesse per il giornalismo. Mi interessava comunque il campo di diritti umani e del diritto internazionale e ho cercato una facoltà che aveva buone possibilità nel mondo del lavoro. In breve, ti laurei a soli 23 anni, quindi molto giovane per gli standard italiani. Quale bilancio dai dell'esperienza accademica? In realtà sono soddisfatta della mia esperienza universitaria. Ho solo un appunto da fare, e cioè che si studia troppa teoria e poca pratica. I primi 4 anni post laurea sono segnati da una permanenza in Italia. Fai praticamente di tutto: master, stage, ti occupi di uffici stampa, ma la domanda fondamentale è: a posteriori, hai trovato un senso logico in tutto questo? Cioè, il mercato post laurea aiuta il giovane a costruirsi un percorso professionale degno di questo nome, o si riduce ad essere un mero sfruttamento di mano d'opera a basso costo? Il mercato post laurea italiano non aiuta particolarmente i giovani. I datori di lavoro non credo che siano interessati veramente a far crescere il giovane, a meno che non siano datori illuminati, ma sono veramente mosche bianche, ma più che altro vogliono solo sfruttare le sue professionalità e cercare di guadagnarci. Per questo che da noi imperano gli stage, gli contratti a progetto, eccetera, eccetera. Nel 2007 la tua voglia di andare all'estero ha la meglio. A vuoto un primo tentativo di andare in Africa, ripieghi su un bando di Caritas e Fondazione Migrantes per l'Australia. 40 candidati, 4 posti, una chance su 10 di farcela e ce la fai, prima in graduatoria. Cosa vai a fare in Australia? Vado a occuparmi di comunicazione sociale e assistenza degli italiani all'estero. In pratica lavoro con la Federazione Cattolica Italiana di Brisbane nell'organizzazione del loro congresso nazionale e poi sempre a Brisbane lavoro presso la segreteria del consolato italiano e ho l'opportunità di tenere lezioni di lingua e cultura italiana nelle scuole. Lavoro anche presso Radio 4AB, che è una radio multietnica che trasmette in 50 diverse lingue, e inoltre collaboro anche con il comitato organizzatore della giornata mondiale della gioventù a Sydney. Tu collabori anche con Amnesty International, dove dici: i miei studi e la mia specializzazione, parliamo dell'Australia, venivano valorizzati sul serio. Quando ci hai provato con una importante ONG in Italia, come è andata a finire? Non allo stesso modo, nel senso che non mi hanno dato le stesse opportunità. Qui da noi ho chiesto addirittura di lavorare gratuitamente, di scrivere per i giornali, ma non mi hanno neanche risposto. Neanche il lavoro gratis funziona in Italia. Però tu non ti rassegni, Laura, perché nel 2008 decidi di tornare in Italia. Cosa trovi ad attenderti nella penisola? Niente. Cioè, desolazione, vero? Desolazione, ho scritto esattamente desolazione, perché io torno veramente piena di entusiasmo, carica, mi sento forte, mi sento maturata, cresciuta, penso di poter fare tantissime cose in Italia e invece mando CV su CV e non ottengo nulla, o nel senso, ciò che ottengo non mi soddisfa, perché mi offrono da una parte call center e database lavori retribuiti, dall'altra parte magari... Diciamolo a un laureato tedesco, magari sei contento di farlo, no? E poi? Non lo so, chiediamoglielo. Io sarò di bocca buona, ma ho rifiutato da una parte il call center e dall'altra parte anche lavori un po' più seri ma non retribuiti, perché sinceramente non mi sentivo più una ragazzina appena laureata che poteva fare uno stage. Tu scrivi: in Italia non avevo le conoscenze giuste per farmi assumere. Poi tutti dicono sempre: il momento è critico. Ma Laura, è possibile che il momento sia critico solo e sempre per i giovani che non sanno farsi raccomandare o cooptare in Italia, mentre per gli altri il posto magicamente si trova? Non è che ci stanno prendendo un po' per i fondelli. Questo l'hai detto tu, io non l'ho mai detto, lo penso e basta. Comunque il momento sì, era critico, io lo capivo, però appunto magicamente, nonostante il momento difficile, nonostante la crisi, chi conosce qualcuno riesce ad andare avanti. Negli altri paesi invece, se tu sei bravo, riesci ad andare avanti. Nel 2009 l'Australia ti lancia la seconda ciambella di salvataggio. Vieni assunta attraverso un processo di selezione molto rigido, molto severo, e raccontaci allora, facci capire cos'è una selezione seria a differenza di quello che i tuoi coetanei troppo spesso devono poi soffrire in Italia. A mandare il mio CV e la mia cover letter rispondendo a un annuncio, dopodiché sono stata chiamata a fare il colloquio con il responsabile che si trovava in Italia, a Roma. Dopo circa una settimana da questo colloquio vengo contattata per un colloquio telefonico, ho passato anche questo, dopo mi hanno inviato ancora un test, dopodiché vengo ricontattata per l'ultimo colloquio che scopro essere quello definitivo. E tu poi tu ti trasferisci in Australia, esattamente ora di cosa sì, ti occupi? Mi occupo sempre di tutte le comunicazioni del marketing riguardo la promozione in Italia e l'ufficio italiano, e inoltre sono una migration consultant, cioè mi occupo di tutti i clienti italiani che ci scrivono e che hanno bisogno di aiuto per venire a vivere qua. E poi se ne vanno tutti, canta giustamente Caparezza in Goodbye Malinconia. Tu questi tutti li senti, li incontri quotidianamente, Laura, li descrivi così: giovani laureati costretti in Italia a vivere di tirocini e contrattini a progetto, che in Australia invece possono aspirare a una vita vera, perché qui i cervelli servono. Io in Italia, lavorativamente parlando, non avevo nulla di meglio, nulla per cui valesse la pena restare. L'Italia, ti chiedo Laura, ha paura di voi, ha paura del talento, ha paura che spaziate via la mediocrità imperante che si è impadronita del paese? Sì, ha paura, e più che altro secondo me impera uno stato di pigrizia, nel senso che chi il posto ce l'ha se lo tiene ben stretto e non è assolutamente interessato ad aiutare i giovani, per quanto questi siano bravi e facciano vedere tutto il loro valore. Ognuno pensa solo al proprio orticello e basta. Laura, una domanda fondamentale per i nostri giovani ascoltatori, un consiglio pratico per andare a lavorare in Australia. Se dite che vi manca la famiglia quando andate solo a qualche centinaio di chilometri da casa, vi mancherà ancora di più in Australia. Se riuscite a superare questo, direi che l'Australia è il paese ideale dove venire a vivere, perché è molto anglosassone, qui vige la meritocrazia, qui si può veramente costruire qualcosa, e inoltre è un paese bellissimo dal punto di vista naturalistico, dello stile di vita e delle persone che si trovano. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero mi appare vecchia, sempre vecchia, immobile, sembra che in Italia non si vada mai avanti, e proprio per questo i giovani non riescono a inserirsi. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Laura Meda, 31enne Italian Representative Officer per Active Migration Group. Laura si occupa di comunicazione e marketing, ma soprattutto di consulenza per i visti di immigrazione in Australia. In pratica aiuta la fuga dei cervelli dall'Italia. E come vi è arrivata? Con una laurea in giurisprudenza, a cui hanno fatto seguito i primi lavori nel 2007, la prima occasione in Australia, grazie a un bando Caritas nella terra dei canguri, la sua vita cambia radicalmente con esperienze importanti. Alla fine del 2008 il rientro nello stivale, dove ad attenderla trova però solo desolazione, e a lanciarle la ciambella di salvataggio è di nuovo l'Australia. Vi arriva attraverso una selezione durissima, al termine della quale ottiene il suo impiego attuale. E ci raggiunge ora in linea Claudio Casoni, 28enne chimico emiliano. Buon pomeriggio Claudio. Ciao, buon pomeriggio. Tra poco spiegheremo tutto di te. Iniziamo col dire che sei uno dei circa 125.000 italiani che vivono in Australia. Aggiungo che secondo dati del Ministero dell'Immigrazione australiano, la maggior parte dei giovani italiani che emigrano down under lo fa per motivi di lavoro, e perché, presto detto, là trovano procedure trasparenti e rapide, salari alti e per i ricercatori risorse ingenti. Condividi? Sì, condivido pieno, insomma, non è come può sembrare l'Eldorado per alcuni, però questi, diciamo, sono i punti di forza di questo paese, per cui mi hanno spinto anche a me a cercare un'alternativa a quello che può offrire l'Italia oggi come oggi. Claudio, sei qui per un motivo molto semplice oggi, sei uno dei giovani che Laura sta aiutando a far scappare dall'Italia. Tu però un lavoro qui ce l'avevi, anche perché hai raccontato a giovanitalenti@radio24.it fino a 10 anni fa le aziende meccaniche e l'industria della ceramica avevano fatto di Sassuolo, da dove provieni, una delle zone più ricche d'Italia. Poi cosa è successo? Soprattutto quali punti deboli del nostro tessuto industriale hanno determinato o concausato la crisi? Il distretto industriale dal quale provengo ha iniziato a soffrire, anche se tardi, dei problemi di cui soffrono oggi la maggior parte dei distretti industriali italiani. Sono poi legati tutti al solito discorso, che è quello della mancanza di un sostegno valido da quella che è la struttura politica del nostro paese, perché alla fine penso che tutti i problemi... Chiamasi politica industriale, eh? E a soli 2 mesi dalla laurea triennale in chimica hai cominciato a lavorare. Nel 2007 la crisi vera non era ancora iniziata, hai avuto anche la fortuna di trovare un capo illuminato, impegnato a ristrutturare l'azienda, affidandosi a un piccolo team giovane. Grazie a lui sei cresciuto molto, fino a quando quel progetto è finito. Perché? Poi purtroppo siamo andati incontro a il dover fronteggiare la crisi e sono emersi tutti i limiti dell'azienda, che come molte altre aziende italiane deve fare i conti con strutture che hanno una reattività scarsa nei confronti dei cambiamenti a livello economico. A 27 anni mi sono trovato nauseato dall'ambiente, dal vedere l'incompetenza, l'ignoranza, l'arroganza, la stupidità e la corruzione di quelli che definiamo classe dirigente, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Oggi per stare in Italia, aggiungi, occorre sopportare stress psicologici che non fanno bene alla salute. La tua denuncia è tagliente, no? Quando è che ad andarsene saranno questi arroganti, no? E a restare sarete invece voi giovani di talento, preparati e aperti al mondo? È una bella domanda, però penso, rimango ancora ottimista nonostante tutto e penso che probabilmente ci vorranno ancora degli anni, ma quando abbastanza persone in Italia avranno preso coscienza del problema, forse si inizierà, diciamo, a cercare la via del cambiamento, che dovrà però senz'altro passare da un cambiamento dal punto di vista della nostra classe politica e dirigenziale. In Italia vedevo distruggere i miei sogni giorno dopo giorno, scrivi. In Australia ce la farai a realizzare questi sogni, Claudio? Questo lo spero. Diciamo che qua si vede un sistema che è totalmente diverso, quello di un paese che comunque ha tanta voglia di crescere. Qua si vive circondati, insomma, da quello che è un sistema meritocratico e da tante opportunità, cose che sono quelle che adesso mancano in Italia. L'ottimismo qua c'è, in Italia veniva a mancare giorno dopo giorno. Grazie, in bocca al lupo. Torniamo a Laura Meda. Domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Direi di provarci, di andare, di partire subito, perché a tornare in Italia, se qualcosa va male, si fa sempre in tempo, però bisogna proprio andare e fare questa esperienza, perché comunque vada si riesce a maturare in un modo pazzesco, e sia da un punto di vista professionale che personale. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi andiamo a Berlino, una delle mete preferite dai giovani della nuova emigrazione professionale. Ruta Stirati è coordinatrice del blog Italiani a Berlino, punto di riferimento online per la nostra comunità di espatriati. Italiani a Berlino è un blog nato come un progetto europeo che prende Madrid, Berlino, Parigi, Francoforte e San Francisco. È un progetto per unire tutti gli italiani che si trovano all'estero, che ormai sono diventati tantissimi e grazie a internet possono comunicare, trovare aiuto, informazioni e idee. Berlino è una città simbolo della nuova emigrazione, soprattutto professionale italiana. Vivendo a Berlino, che idea ti sei fatta? È in crescita? Direi assolutamente di sì. Questa emigrazione ha preso veramente piede in una maniera strabiliante. Prima erano soltanto gli studenti che venivano, i classici ragazzi che venivano per Erasmus, io d'altronde pure mi sono trasferita per lo studio. Adesso è un fiume in piena e ci sono diverse tipologie di italiani che vengono, non sono più solo studenti ma sono anche laureati senza lavoro che cercano di avere qua un'alternativa, ma anche persone, professionisti, laureati con lavoro che decidono di trasferirsi a Berlino con addirittura tutta la famiglia. E in quest'ultimo caso perché lasciano il paese? Anche per questo ci sono diverse tipologie di persone. Vengono a Berlino tantissime persone che hanno mai perso la speranza in Italia, una speranza di una diversità politica, di una speranza di trovare un lavoro oppure un lavoro ben retribuito, che non vedono più una speranza, una qualità della vita. Alcuni decidono proprio di non voler far crescere i propri figli in Italia oppure di non volerli fare in Italia. Altri non hanno tutta questa disperazione, ma semplicemente amano Berlino, perché Berlino è una città che comunque offre una qualità della vita molto più alta rispetto alla media italiana. Ci stanno verde, piste ciclabili, spazio per la cultura. E non è vero che ci sta così tanto lavoro, questa è una cosa da dire. Diciamo che è anche una grande bolla di sapone, tutti vengono a Berlino pensando di trovare tutto quanto, lavoro ben attribuito compreso. Non è così, però